Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buona giornata da Jean-Marie Delbo e benvenuti a Magazine 24, il settimanale di Radio 24 che si occupa dei periodici che potete trovare in edicola in questi giorni. Questa settimana i principali periodici italiani puntano decisamente la barra sulla cronaca. Fa così Panorama, che presenta in anteprima i documenti della trattativa segreta tra mafia e Stato. Il settimanale si sofferma dunque sulle carte che proverebbero, provenienti dall'archivio di Vito Ciancimino, l'esistenza di questa trattativa tra mafia e Stato. Racconta Gianluigi Nuzzi: il nascondiglio segreto di Bernardo Provenzano alle porte di Palermo, gli appuntamenti di Zubinnu da latitante a Piazza di Spagna, i lingotti d'oro che Totò Riina regalava ai politici più fidati, i nomi dei giudici ritenuti avvicinabili in Cassazione, i processi che si dovevano aggiustare. Poi su tutto, il famigerato Papello, con le richieste che i corleonesi nell'estate delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio avanzavano per chiudere la stagione del sangue. Pizzini, date, cifre, dossier e veleni. L'archivio di Cosa Nostra, custodito all'estero ed esaminato in esclusiva da Panorama, sta per rientrare in Italia e mostra la filigrana di molti misteri che hanno costellato il secolo scorso. Su Panorama si possono vedere le foto di alcuni fra questi documenti, oltre alle foto che rimandano alla stagione dei delitti che 15 anni fa insanguinò l'Italia. Ma la mafia non è tema solo esclusivo di Panorama. Di mafia parla anche Donna Moderna. Donna Moderna, infatti, intervista Rita Borsellino in occasione delle giornate di anniversario della strage di Via D'Amelio, dove Rita Borsellino perse il fratello Paolo. E nell'intervista di Antonella Trentin a Rita Borsellino ritorna anche il problema della ipotetica trattativa fra mafia e Stato. Domanda infatti Antonella Trentin: il boss Totò Riina, a proposito della strage di Via D'Amelio, ha parlato di un accordo tra mafia e Stato e ha detto di esserne estraneo. Lei che ne pensa? Risponde Rita Borsellino: l'affermazione di un accordo tra mafia e Stato non mi sorprende, ma Riina non parla mai per caso. In genere lancia messaggi trasversali. Vorrei sapere a chi sta parlando e perché ha scelto proprio questo momento. L'intervista poi prende naturalmente un risvolto anche più privato. Antonella Trentin chiede: cos'era Paolo Borsellino per lei? E risponde la sorella: lo amavo tantissimo, era il mio punto di riferimento, l'interpretazione della realtà in cui vivevo. Metteva in parole e gesti quello che allora io non sapevo esprimere. E con queste parole Rita Borsellino in qualche modo dà voce al vuoto che da quei terribili giorni molti italiani provano in relazione alla mancanza di figure come quelle di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone. Dicevamo cronaca, e cronaca si trova anche sull'Espresso. L'Espresso dedica la copertina alla vicenda delle registrazioni degli incontri tra Silvio Berlusconi e Patrizia D'Addario, ma nella parte interna del giornale dedica poi un robusto approfondimento alla realtà dell'evasione fiscale. Sotto il titolo L'Italiano Tax, Paolo Biondani racconta: c'è il nullatenente con 45 appartamenti tra Veneto e Campania, il costruttore che dichiara meno dei suoi muratori, anche se in garage ha 10 Ferrari, il call center con 216 dipendenti che non presenta neppure la dichiarazione dei redditi, la pensionata che parcheggia la Jaguar sotto la casa popolare e la multinazionale della New Economy che finisce sotto accusa per una presunta evasione da 250 milioni di euro. È proprio vero, dice Biondani, che l'Italia, come dice Berlusconi, è un grande paese, che però, come ammoniva Prodi, ha una grandissima evasione fiscale, tanto smisurata da mettere in crisi economisti e matematici, e tanto grande che nel 2006 l'Istat ha stimato in niente meno che 230-250 miliardi all'anno il volume d'affari dell'economia sommersa. La caratteristica dei settimanali di questa settimana è l'affrontare prevalentemente temi di cronaca. Non si distacca da questa linea anche Vita, che parla di rivoluzione alle porte per i medici di base, facendo riferimento alle indicazioni che sono presenti nel libro bianco sul welfare del ministro Maurizio Sacconi. Parlando della sanità, dice Vita, Sacconi delinea un percorso con chiarezza, perché è forte di un giudizio ormai diffusamente condiviso. La logica del piccolo ospedale di territorio, spiega il libro bianco, non ha più senso. La strategicità dell'ospedale non sta nella vicinanza, ma nelle competenze che garantisce al paziente nel momento del ricovero. Sta nell'interdisciplinarità che solo grandi strutture possono permettersi. Quindi, meglio non avere un ospedale dietro l'angolo, ma avere un ospedale in grado di offrire professionalità. Ma se l'ospedale lascia il presidio del territorio, che cosa prenderà il suo posto? Sacconi dice: si va verso un sistema nel quale si integrano servizi in ciascun ambito territoriale, lasciando il giusto spazio ai servizi extraospedalieri. In questo modo, quindi, Vita prefigura l'ipotesi di una vera e propria rivoluzione nella gestione della sanità, con più salute, meno ospedali e un nuovo ruolo per il medico di base, il vecchio medico di base. Resta sempre nell'ambito della cronaca Panorama, che dedica un approfondimento ai bilanci del Vaticano, sotto il titolo, effettivamente scioccante, In Vaticano bilanci rosso shocking. Racconta Ignazio Ingrao: profondo rosso in Vaticano. Ma stavolta non è la porpora dei cardinali, bensì il deficit dello Stato più piccolo del mondo, vittima anch'esso della crisi economica. 15.313.000 euro il disavanzo della Città del Vaticano, 911.000 euro quello della Santa Sede. Per correre ai ripari, il Consiglio dei Cardinali ha definito alcune linee d'azione che Panorama è in grado di anticipare: valorizzazione del patrimonio immobiliare, revisione degli asset finanziari, blocco del turnover del personale, risparmi nei mass media. Da cui si vede che il problema della ristrutturazione e della riorganizzazione passa anche il confine Italia-Vaticano, arrivando in un'area che si poteva ritenere fosse più fortunata del resto del mondo. Fa un'incursione nella storia sociale del nostro paese, nella piccola storia, ma grande storia sociale del nostro paese, Famiglia Cristiana, che in un reportage di Carlo Remeni, Rosa Gaimari e Fabio Lepore racconta la storia dei Rom del futuro, ovvero alcune storie positive di integrazione nel nostro paese. Scrivono i tre autori: Lacrima si è recata agli esami di scuola media superiore il giorno dopo che è stata sgomberata con la famiglia da un campo Rom. Ha dormito in macchina, alle 6 di mattina è scesa dall'auto, si è lavata con l'acqua di una bottiglietta, si è pettinata indossando il vestito più adatto e alle 8:15 era davanti al portone della scuola media Corrado Alvaro a Milano. Lacrima è il soprannome che hanno dato a Elena Teodorescu, quando da piccola non faceva che piangere. Arriva dalla provincia di Craiova, Romania, è giunta in Italia nel 2004. Oggi ha 15 anni, dice di sentirsi a casa qui, eppure la sua vita non è stata certo facile. Alla prova di fine anno ha scritto nel tema: quando mia mamma è venuta a prendermi per portarmi in Italia, pensavo che mi attendesse una specie di paradiso. Poi ho conosciuto solo sgomberi e tanta sofferenza. Ma insieme ad altri 5 ragazzi nomadi ha superato l'esame di terza media con ottimi risultati e adesso l'aspetta la sfida della scuola superiore. Una nota di speranza, gli autori la rilevano: tra i loro compagni c'erano italiani, ma anche tanti stranieri provenienti da Marocco, Serbia e Sud America. E in questa realtà si è riusciti comunque a ottenere risultati scolastici soddisfacenti. Una nota decisamente più leggera viene da Sorrisi e Canzoni, che dedica un approfondimento molto lungo alla ricerca dei tormentoni da spiaggia, ovvero il viaggio nell'Italia in vacanza alla ricerca di quei di quegli oggetti, di quelle canzoni che tra qualche anno verranno ricordati come il simbolo dell'estate 2009, che si ricorderà certamente per l'estate post-crisi, ma sicuramente anche per gli oggetti di tendenza. Racconta Nicoletta Brambilla, 7.000 chilometri di costa italiana, tra cui le 227 spiagge dove sventola la bandiera blu, attestato di qualità europeo, stanno per essere presi d'assalto dal popolo dei vacanzieri. Nonostante la crisi, dunque, o forse proprio a causa di essa, la parola d'ordine è divertirsi. La colonna sonora di quest'estate bollente è in continuo divenire e il tormentone potrebbe esplodere da un momento all'altro. La partita, spiegano al Papete Beach di Milano Marittima, che da 7 anni pubblica un CD con le musiche più gettonate, quest'anno si gioca fra Lala Song di Bob Sinclair, Not Fair di Lily Allen, Mamadou di Pixie Lott, Wonderful di Go Gary, J.O. dalla colonna sonora del film The Millionaire e gli italiani Zero Assoluto con Per Non Dimenticare. Ma al Papete puntano su un outsider, la Graziella, un ritmo anni 60 con il quale la discoteca chiude il suo programma giornaliero dello show della spiaggia. Ma al di là delle canzoni, la plastica è la vera regina dell'estate. Orologi, sandali, palloni. Per esempio i sandali flip-flop, oppure le imitazioni delle borse dei più noti stilisti contro cui combattono i controllori anticontraffazione e i braccialetti dell'amore, la rivisitazione delle caramelle Smarties tenute insieme da un elastico e in vendita a 2 euro. Alle rivisitazioni degli anni prossimi, l'ardua sentenza su quale sarà l'oggetto simbolo del 2009. Magazine 24. Bentornati da Jean-Marie Delbois, Magazine 24, il settimanale che si occupa dei periodici che trovate in questi giorni in edicola. Ovviamente, anche questa settimana non possono mancare gli approfondimenti sulla crisi economico-finanziaria. Torna sull'argomento l'Espresso, con un commento di Luigi Zingales, dal titolo significativo «Tornano gli speculatori». A Wall Street, scrive Zingales, la crisi sembra dimenticata. Goldman Sachs ha annunciato i profitti trimestrali più elevati della sua storia, 3,44 miliardi di dollari. Le maggiori imprese finanziarie hanno seguito a ruota. Perfino Citigroup ha riportato profitti trimestrali per 4,3 miliardi di dollari. Gli operatori finanziari, dice Zingales, lungi dall'essere contriti per gli errori passati, si sentono ringalluzziti. La storia recente ha dimostrato che è nel loro interesse assumersi rischi. Se le cose vanno bene, guadagnano cifre favolose. Su base annua, per esempio, i compensi di Goldman per il primo semestre 2009 corrispondono a una media di 772 mila dollari per dipendente, segretarie e portieri inclusi. Ma se le cose vanno male? Se le cose vanno male, conclude Zingales, interviene lo Stato. E il gioco ricomincia, un tema che viene trattato anche con una certa amarezza proprio nel momento in cui si vedono i primi risvegli che possono far immaginare l'uscita dal tunnel della crisi economica. Sul tema delle buone notizie, delle cattive notizie, dei costi della crisi, si sofferma anche Moises Naim, direttore di Foreign Policy, nel libro Lezioni per il futuro, che è in vendita in questi giorni con Il Sole 24 Ore. Cominciamo dalle buone notizie, dice Naim. In maggio 345.000 persone sono state licenziate negli Stati Uniti. L'altra buona notizia è che a marzo i prezzi delle materie prime sono saliti del 20%. Ma com'è possibile che queste siano buone notizie? Sono buone notizie, sottolinea Naim, perché il numero di posti di lavoro persi a maggio è il dato più basso degli ultimi 9 mesi e sta diminuendo rapidamente. A sua volta, l'aumento dei prezzi delle materie prime segnala un aumento della domanda e questo indica che il periodo di contrazione economica globale è finito e sta cominciando la ripresa, quantomeno negli Stati Uniti. Una ripresa che è decisamente ambita se si considera che tra il 1960 e il 2007 le 21 economie più importanti del mondo, dice Naim, hanno dovuto affrontare 120 recessioni. Le recessioni sembrano frequenti, ma in realtà non lo sono, perché nell'arco di 47 anni 21 paesi sono stati in recessione solo per il 10% del loro tempo. E meno male, sostiene Naim, perché le recessioni hanno costi enormi. Per esempio, dopo una crisi finanziaria, il prezzo delle case cala mediamente del 35% e passano 6 anni prima che torni ai livelli precedenti. E i prezzi delle azioni quotate in borsa diminuiscono del 56%. Mentre le ripercussioni peggiori sono sull'occupazione, che mediamente continua a calare per 5 anni dopo la crisi, con un tasso di disoccupazione che arriva in media al 7%. Sul tema torna, sebbene da un punto di vista decisamente particolare, l'Economist. L'Economist che prende in esame un dato tutto inglese, cioè la crisi dei giornali locali. Sottolinea l'Economist che in Gran Bretagna si sta assistendo alla chiusura di un grandissimo numero di giornali locali. E sotto il titolo «La città senza notizie», l'Economist si domanda: che cosa succede quando una località perde i suoi giornali? Se lo domanda perché, come dicevamo, molti dei giornali che hanno chiuso in questi mesi erano nella loro area territoriale il secondo o la terza pubblicazione più venduta. Insomma, una piccola città non resta naturalmente senza notizie, ma resta senza la voce caratteristica che dava le notizie, chiamiamole di vicinato. Restiamo all'Economist per tornare decisamente a occuparci di politica estera. Questa settimana il settimanale inglese dedica un amplissimo spazio al mondo arabo con un reportage speciale di 14 pagine che caratterizza anche la copertina, dove si parla del risveglio dei paesi arabi e di una rivoluzione tranquilla che è cominciata nel mondo arabo. Un approfondimento che effettivamente diventa di grande attualità e di grande interesse nel momento in cui vediamo investimenti nei capitali azionari delle nostre aziende e nel momento in cui questo risveglio avviene dopo un periodo di tremenda tensione tra l'Occidente e il mondo arabo. Sottolinea l'Economist che il mondo arabo sta cambiando pesantemente soprattutto dal punto di vista sociale, e questo potrebbe portare alla necessità, alla tendenza a voler cambiare governi spesso corrotti, spesso dittatoriali, che spesso hanno fallito. Secondo l'Economist questa è una prospettiva sostanzialmente certa. La grande incognita è soltanto quando tutto questo accadrà. Nel Medio Oriente si interessa anche Famiglia Cristiana, facendo riferimento alla situazione irachena. Sotto il titolo «Baghdad resta sola», il settimanale cattolico pubblica un reportage di Fulvio Scaglione che racconta: «Gli americani se ne vanno, gli iracheni festeggiano, i cristiani muoiono». Il riassunto è un po' brutale, ma non è falso. A fine giugno i generali americani hanno ceduto ai loro colleghi iracheni il controllo di quasi 200 basi e avamposti creati nei 6 anni passati dall'attacco a Saddam Hussein, e hanno concentrato i loro 130.000 soldati nelle grandi città dell'Iraq. Se il programma fissato dal presidente Obama sarà rispettato, entro l'agosto 2010 se ne andranno dal paese 90.000 uomini USA, che entro il dicembre 2011 saranno raggiunti a casa dagli altri 35.000. In modo sorprendente per noi, continua Scaglione, ma tipico per il Medio Oriente, i politici e i militari iracheni hanno festeggiato come un trionfo il primo parziale ritiro. In realtà Scaglione dice: dovremmo essere stupiti, il loro regime nemmeno esisterebbe se non ci fosse stato l'intervento americano, e nel 2008 più di 2,5 milioni di iracheni su 29 milioni di abitanti hanno tirato avanti grazie ai $207 milioni di aiuti umanitari delle agenzie ONU. Eppure il premier al-Maliki ha parlato di grande vittoria. Ma quali sono le conseguenze? Il primo, il più drammatico ed evidente dei fenomeni, racconta Scaglione, è la ripresa del terrorismo. Negli ultimi 20 giorni, almeno 500 morti e molte centinaia di feriti, in aperta sfida alla nuova autonomia dell'Iraq. Anche per questo, sottolinea Scaglione, Obama ha lasciato più volte trapelare un certo scontento per gli scarsi progressi realizzati dal regime di al-Maliki nei rapporti di potere fra sciiti, sunniti, arabi e curdi. Su tutto aleggia poi lo spettro delle elezioni politiche di gennaio 2010. Fino fino ad allora saranno frenetiche trattative per la spartizione del potere tra sciiti, sciiti e sunniti, arabi e curdi. E chi non sarà soddisfatto della fetta ottenuta potrebbe voler sfruttare la migliore efficienza dell'esercito e delle forze dell'ordine per mandare a chi di dovere messaggi di distruzione e magari di morte. Di politica estera si occupa anche Newsweek con un focus sull'India. India che viene visto come un paese, ed è inevitabile, che è destinata ad avere un peso straordinario nel futuro della politica mondiale. E si indica proprio nell'India il paese che dovrebbe porsi come potenza ponte tra ricchi e poveri, tra lo Stato più potente del mondo, gli Stati Uniti, e il più popoloso, e tra le varie religioni, proprio grazie alla sua identità e alla sua storia. Veniamo poi a tre segnalazioni di carattere particolare. Anzitutto il cosiddetto obituary dell'Economist, cioè l'articolo che il settimanale britannico dedica ogni settimana alla scomparsa più importante del mondo secondo il giudizio dei giornalisti inglesi. Questo secondo il giudizio dei giornalisti dell'Economist. Questa settimana, a loro parere, la scomparsa più importante è la morte di Walter Cronkite, il giornalista che ha fatto la storia della televisione americana. Nella consueta pagina di descrizione e di celebrazione e ricordo viene visto e raccontato un Cronkite non solo pubblico, ma anche più privato. La vignetta della settimana, poi, a mio parere, è quella che apre l'Espresso di Altan, dove una signora si pone la domanda di dare un giudizio al G8 dell'Aquila e conclude amaramente: se quelli sono i grandi della terra, figuratevi i piccoli. Con un giudizio davvero amaro, non tanto sull'andamento del G8, quanto sulla statura dei cosiddetti grandi e sulla loro capacità di affrontare le emergenze di questi tempi. Un giudizio forse un po' qualunquista, ma che aspetta di essere smentito dai fatti. Un'ultima cosa, la segnalazione di un sito. Per chi vuole girare su internet, scoprire nuove fonti di informazione, il sito è quello del quotidiano francese cattolico La Croix, www.la-croix.com, un punto di vista del tutto originale nell'ambito dei quotidiani e della stampa francese e originale, a mio parere, anche per la modalità con cui vengono trattati i temi dell'attualità, sia che abbiano riferimento al mondo cattolico, sia riferiti più complessivamente alla realtà dei giorni nostri. Con questo vi saluto, ringrazio in redazione Vittoria Mussini e Daniele Casagrande, in regia Pietro Lacorte, da Jean-Marie Delbo, appuntamento alla prossima settimana.